Un libro tira l'altro, di Salvatore Carrubba. Buongiorno cari amiche e cari amici, il mese prossimo si vota in Sicilia e questo probabilmente riaccenderà l'attenzione sulle condizioni del mezzogiorno. E vi segnalo allora il libro di Lino Patruno, che è stato un giornalista a lungo direttore della Gazzetta del Mezzogiorno, Ricomincio da Sud, e qui il futuro d'Italia, pubblicato da Rubbettino, 252 pagine, 14 euro. Riscoprire il Sud, questo è il messaggio dell'autore, che invita a guardare con occhi diversi il mezzogiorno. Scrive infatti che l'America di Italia sarebbe oggi il Sud se tutti vi scendessero con gli occhi pronti a stupirsi e col taccuino disposto a registrare, se vi scendessero con lo spirito del viaggiatore che vede cose nuove se vuole vederle. Si rende conto della difficoltà di cambiare l'opinione collettiva sul mezzogiorno, ma insiste: occorre vedere ciò che per pigrizia, per malafede, per partito preso, per ignoranza, per assuefazione, per superficialità non si vede. E ricorda: se il Sud fosse cresciuto in 150 anni come il centro-nord, oggi tutta l'Italia sarebbe non meno ricca di Francia e Germania. E quindi bisogna scoprire queste risorse segrete, e la riscoperta del Sud può consentire di dare un giudizio diverso di quelle regioni. Se non ci fosse il Sud, scrive infatti Patruno, l'Italia avrebbe un quarto in meno della sua ricchezza. Se non ci fosse il Sud, l'Italia non avrebbe quasi tutto l'acciaio per le sue auto, le sue navi, i suoi locomotori, i suoi elettrodomestici, eccetera, eccetera. Si parte nel libro dall'unità, anzi dall'indomani dell'unità, per verificare con una serie di domande e risposte il lascito effettivo dell'unificazione delle politiche per ridurre il divario, e poi si presenta il panorama industriale e produttivo e si prosegue con 71 domande per verificare quanto sappiamo di queste realtà. Nel libro poi si parla di federalismo, di sacco del Sud esaminato in 29 esempi e della giornata tipo di un meridionale. Ma sentiamo l'autore. Buongiorno a Lino Patruno. Buongiorno. Lino Patruno, questo suo libro Ricomincio dal Sud mi sembra anche rivolto al mezzogiorno per fargli riacquistare fiducia, no? Non ci sono dubbi, perché il mezzogiorno soprattutto ha bisogno di conoscere se stesso prima di farlo conoscere agli altri, e il libro fa appunto un itinerario in un mezzogiorno sconosciuto agli stessi meridionali, un mezzogiorno che finora è stato raccontato soprattutto come un problema, una zavorra, una malattia del paese, e invece può essere il futuro di tutta l'Italia se saprà mettere a frutto le sue ricchezze e cambiare un po' delle sue politiche e della sua mentalità. Ecco, in questo suo impegno contro il pessimismo, lei a un certo punto, c'è un capitolo che si intitola I punti di forza, punti di sforzo. Ecco, quali sono i principali punti sui quali sforzarsi di sollevare il mezzogiorno? Ma il mezzogiorno, tanto per cominciare, può essere quella che si definisce la piattaforma logistica del Mediterraneo, e cioè questa grande propagine nel mare che è diventato di nuovo il centro del mondo, perché attraverso questo mare passa il 40% dei commerci che provengono soprattutto dall'Asia, e quindi il mezzogiorno deve essere capace ed essere messo in condizioni di farlo anche con le infrastrutture che gli mancano per intercettare questo flusso e distribuirlo nel resto d'Europa. Poi il mezzogiorno può essere il nuovo Eden delle energie alternative, in questa direzione si sta già muovendo, quindi tutta la politica che riguarda il verde, che riguarda anche la specializzazione dell'agricoltura, la valorizzazione del turismo e anche la valorizzazione dei beni agroalimentari. Il complesso di queste cose può presentarci, con i dovuti interventi soprattutto nel campo delle infrastrutture, un mezzogiorno diverso al servizio dello sviluppo dell'intera Italia. Senza dimenticare le realtà produttive, in quest'estate si è parlato molto naturalmente di Termini Imerese, di Ilva, ma insomma si dimentica spesso che molte grandi aziende produttive sono ancora nel mezzogiorno. Non ci sono dubbi, io sono piuttosto, diciamo, infastidito, se mi permette il termine, quando sento parlare di centro-nord come parte produttiva del paese. Non ci sono dubbi che lo sia, io direi più correttamente parte più produttiva del paese e non esclusiva nel campo della produzione. Nel mio viaggio che ho raccontato in questo libro ho censito 71 eccellenze nel mezzogiorno, sono 71, avrebbero potuto essere il doppio o altro, c'era solamente una questione di sintesi, e sono delle eccellenze che sfuggono, diciamo, alla conoscenza dei meridionali e del resto del paese. Poi è vero che nel mezzogiorno sono impiantate soprattutto grandi industrie di proprietà settentrionale o estera, però è anche vero che queste industrie contribuiscono all'occupazione del mezzogiorno solamente per il 20%, tutto il resto è farina del sacco meridionale. Ecco, far conoscere tutta questa realtà e creare gli opportuni raccordi fra tutti questi presidi produttivi credo che sia il compito che deve svolgere la politica, anche e soprattutto la politica meridionale, appunto perché il mezzogiorno possa essere, come io credo, il futuro d'Italia. Ecco, in questo viaggio che ha fatto, che idea si è fatta sulle ragioni del declino e anche sulle ragioni di questa incomprensione reciproca tra sud e nord d'Italia? Ma l'incomprensione ha ragioni storiche, noi siamo un paese che è nato unito nelle condizioni peggiori, però la storia insomma è passata, è inutile stare a ripetere cose che ormai risalgono a 150 anni fa, anche se alcuni effetti si hanno ancora oggi. Io credo che manchi in Italia la coscienza di avere nel proprio paese una riserva di energia inespressa, che è quella del mezzogiorno. Se noi pensiamo che al sud c'è il 20% di tasso di occupazione in meno rispetto al nord, allora si capisce come bisognerebbe puntare su questo sud, al di là dei suoi difetti, dei suoi fatalismi, delle sue pigrizie, delle sue ignavie e delle sue cose non fatte. Certamente ci sono state politiche sbagliate verso il mezzogiorno, delle quali sono responsabili anche i meridionali, ma parlare del sud solamente come spreco, come criminalità, come un qualche cosa del quale liberarsi, credo che non faccia bene a nessuno, né al sud né al paese intero nel suo complesso. Ecco, soffermiamoci un momento su questi caratteri negativi che lei ha messo in luce proprio pochi secondi fa. Secondo lei lo stimolo a cambiare deve venire più da fuori il mezzogiorno o da dentro? C'è una società civile che nel mezzogiorno che sarà capace, a suo parere, di imboccare una strada diversa? Non ci sono dubbi che debba venire soprattutto nel mezzogiorno. Io dico, faccio dire nel mio libro, che un Dio terrone potrà dare una mano al sud, ma l'altra mano se la deve dare lo stesso mezzogiorno. Però dico anche che, come diceva un famoso poeta, dove ci sono i problemi, lì ci sono anche le soluzioni. La società civile meridionale, che sembra così assente, così diciamo non presente nel mezzogiorno, comincia a farsi sentire, ma non in maniera sufficiente. Se noi teniamo conto, per esempio, che dal mezzogiorno continuano a partire ogni anno 80.000 giovani che vanno a frequentare università nel resto del paese o a lavorare nel resto del paese, ignoriamo però che ci sono dei gruppi come quello, come in Calabria, di giovani che hanno costituito questo organismo Io Resto in Calabria, e ignoriamo che è nato al sud un movimento che poi si è sviluppato soprattutto su internet, Bentornati al Sud, di giovani che cominciano a tornare e cominciano a mettersi fra di loro per costituire aziende, per intraprendere delle attività. E poi ci sono i cosiddetti terroni 2.0, quelli che vanno via ma contribuiscono allo sviluppo del mezzogiorno stando di fuori attraverso quel mezzo straordinario che è internet. Insomma, il sud si muove molto più di quanto si creda, non è sufficiente, ma bisogna guardare tutto questo con un occhio attento, ma anche se non compiacente, perché qualche cosa qui potrà avvenire nell'interesse dell'intero paese. E la politica potrà svolgere un ruolo? Dovrebbe svolgere un ruolo la politica, attualmente soprattutto la politica meridionale è assolutamente deficitaria da questo punto di vista. Abbiamo avuto i professionisti del meridionalismo, diciamocelo chiaro e tondo, quelli che erano più interessati a conservare l'emergenza per conservare se stessi. Io dico sempre che il mezzogiorno non vuole, non ha bisogno di nuovi soldi, ha bisogno, perché i soldi sono stati fonte di sprechi, non diversamente dal resto d'Italia per la verità, sono stati fonte di corruzioni e fonti di malavita che ci ha messo le mani sopra. Il mezzogiorno vuole in questo momento solo opere di bene, nel senso essere messo nelle stesse condizioni di partenza per quei beni sociali, per quei beni pubblici, soprattutto le infrastrutture che gli mancano. Dopodiché il mezzogiorno dovrà essere capace di dimostrare di poter andare avanti da solo, oppure sarà solamente esso stesso responsabile delle sue sorti. Grazie a Lino Patruno, autore di Ricomincio da Sud. Buona domenica. Grazie anche a voi. Una visione controcorrente del mezzogiorno, anche questa proveniente dalla Puglia, la offre uno storico meridionalista pugliese, Michele Viterbo, morto 30 anni fa, di cui La Terza ripropone Gente del Sud, Il Sud e l'Unità, pubblicato appunto dalla Terza, 610 pagine, 28 euro. Questo è un libro del 1966 che faceva parte di un'opera in tre volumi e che cerca di offrire una visione appunto meno conformista del mezzogiorno. L'autore si batte infatti contro quella che egli definisce la vilenza evidente retorica fatta per interi decenni sulla cosiddetta questione meridionale, palla di piombo ai piedi dello Stato italiano, che avrebbe fuorviato, a suo parere, il retto giudizio, avrebbe lasciato pensare a un mezzogiorno soggetto a una specie di sinistro fato e di inferiorità congenita e perpetua. Ma son folle, e la storia del Sud va interpretato senza ottimismo, ma anche senza tetre e opprimenti prevenzioni. E qua si parla soprattutto del Sud nel Risorgimento, esprimendo la speranza che il Mezzogiorno possa inserirsi nella grande rivoluzione industriale di cui l'autore vedeva i prodromi nel 1959. Purtroppo da allora molti progressi non sono stati fatti, tanto da far apparire il Sud a un bivio, quello tra il decollo e lo sprofondamento, come osserva nella postfazione al libro il governatore della Puglia Nichi Vendola. E adesso le informazioni sul traffico. Un libro tira l'altro. Ben ritrovati con Salvatore Carruba. A Milano qualche settimana fa c'è stata una polemicuccia estiva sulla proposta di intitolare una strada al maresciallo Radeschi. E allora vi segnalo agli appassionati di questo tema, agli ammiratori di quel personaggio e a chi non vorrebbe intitolargli la strada, un librettino di Alessandro Luzio intitolato Papà Radeschi, pubblicato dalle Lettere, 102 pagine, 9,50 €. Il libro cerca di dare una visione equilibrata da parte di questo autore, che volle con la pubblicazione di questo libro nel 1901 offrire uno strumento di analisi su questo personaggio. Il libricino non è esattamente per i nostalgici dell'impero austro-ungarico, lo è almeno soltanto in parte, anche perché quando venne pubblicato fu condannato dalla storiografia austriaca. E Luzio appunto cerca di dare di Radeschi un quadro equilibrato, ma certo non emerge un gran personaggio. Lo definisce di mediocre levatura intellettuale al quale mancavano, secondo l'autore, il genio militare e il colpo d'occhio dell'uomo di Stato. E se svolse un ruolo decisivo per le sorti inizialmente positive per l'Austria nelle guerre di indipendenza, fu soltanto per gli errori degli avversari. E quindi il titolo Papà Radeschi è un titolo ironico per contestare l'apoteosi che ne aveva fatto l'Austria e che ne vorrebbe fare qualche nostalgico oggi. Una delle pagine più trascurate, ma forse decisive, del Risorgimento, è una pagina che fu anch'essa un capolavoro di Cavour, fu il matrimonio obbligato, naturalmente dalla ragion di Stato, tra la figlia di Vittorio Emanuele II, Clotilde, e il cugino di Napoleone III, Girolamo Bonaparte. Di questo matrimonio, di questa figura interessante e appartata, parla il libro di Cristina Tessaro, Clotilde di Savoia, il sì che fece l'Italia, pubblicato dalle Pauline, 302 pagine, 17,50 €. Quando si sposò, per le pressioni appunto di Cavour, lei quindicenne, il marito più anziano di 21 anni, Clotilde sapeva di aderire appunto alla ragion di Stato. Soprattutto sapeva che le abitudini del marito erano ben diverse da quelle della propria famiglia e da quelle personali. Lei era molto religiosa, invece il marito era ateo, gaudente, e la tradirà diverse volte. Ma gli resta sempre al fianco, portandosi con grande dignità, riconosciuta da tutti, soprattutto quando Napoleone III cade e il cugino addirittura comincia a brigare per succedergli. Il rapporto poi tra i due coniugi si farà sempre più difficile finché, tra molti travagli, la principessa accetterà di separarsi dal marito. Ma perché i francesi si erano fissati con questo matrimonio? Ce lo spiegano queste righe. L'ipotesi di un matrimonio tra la figlia di Vittorio Emanuele e il Bonaparte circolava già dall'agosto del 1857. Il primo a riferirla a Cavour era stato un banchiere genovese residente a Parigi, Alessandro Bixio, fratello del più noto Nino. In seguito, l'idea fu riportata al ministro da un suo stretto collaboratore, Costantino Nigra, il quale aveva raccolto le confidenze dell'imperatore sul tema. Cavour decise di sondare il terreno in maniera più approfondita e invitò a Torino il medico personale dell'imperatore, Conneau, che confermò di nuovo le voci raccolte. L'imperatore proponeva un'alleanza politica e familiare che passasse attraverso l'unione del cugino con Clotilde. Quando il re venne informato della proposta, dovette balzare sulla poltrona. Un altro grande Savoia, decisivo per le sorti d'Europa, fu Eugenio, il condottiero che evitò la conquista di Vienna da parte dei turchi e quindi salvò l'Europa, consolidando la dinastia asburgica nel XVIII secolo. È una figura affascinante, ricca di capacità militari e politiche, che lo portò a governare varie parti dell'impero, dalle Fiandre alla stessa Milano, e a consolidare il Ducato di Savoia, che grazie a lui diventerà un regno. E a questa figura è dedicato il libro di Wolfgang Oppenheimer e Vittorio Cardinali, intitolato La straordinaria avventura del principe Eugenio, l'Achille Sabaudo al servizio degli Asburgo, è pubblicato da Mursia, 296 pagine, 17 euro. Di Eugenio, tra l'altro, resta, tra gli splendidi monumenti che fece costruire, il Belvedere di Vienna, che risponde ai criteri dettati personalmente dal condottiero che vengono descritti nelle righe che vi propongo adesso. Eugenio sapeva scegliere molto bene i suoi architetti e sapeva anche farli lavorare in modo che intendessero e sapessero esprimere le sue idee. La sensibilità per l'arte, naturale in lui come il desiderio di ordine e di disciplina, emanava dallo stesso spirito che gli faceva accettare la tradizione, le dinastie, la società costituita, in breve l'organicità nella quale si realizza lo splendore dei fabbricati e dei giardini e che costituisce uno dei tratti più tipici del barocco. Il principe di Savoia teneva una fitta corrispondenza sulla costruzione dei castelli, ma faceva dipendere l'ultima decisione dalla sua presenza personale sul posto. Veri capolavori divennero quindi il palazzo nella Himmelpfortgasse, così come il Belvedere, superiore e inferiore, i cui giardini, cioè i vigneti, si stendevano fuori della città. La vastità dell'intero complesso architettonico e la precisione delle rifiniture, dove nella grandiosa bellezza nulla appariva superfluo, formavano una perfetta armonia d'insieme. Restiamo in campo storico, ma veniamo a tempi più recenti con un libro di Hope Hamilton, Sacrificio nella steppa, la tragedia degli alpini italiani in Russia, pubblicato da Rizzoli, 468 pagine, 21 euro, ed è tradotto da Marco Clementi. L'autore è nipote di due alpini che hanno partecipato e sono sopravvissuti alla campagna di Russia e vuole studiare una pagina certo nota della storia militare, ma letta spesso in modo distorto, anche per ragioni di opportunità politica. E quindi l'autore confessa di voler ripercorrere la storia degli alpini dal basso attraverso i racconti in prima persona dei veri protagonisti della campagna di Russia, tra i quali ho incluso le esperienze dei miei zii, appunto Nello Corti e Veniero Aimone Marsan, che fecero parte del corpo alpino. Restiamo in campo storico, ma andiamo ancora indietro nel tempo con una delle pagine più oscure della storia, una pagina che non manca mai di suscitare una curiosità che spesso rasenta la morbosità. Il tema è quello dei Templari, che troviamo nel libro di Simonetta Cerrini, L'Apocalisse dei Templari, missione e destino dell'ordine religioso e cavalleresco più misterioso del Medioevo, pubblicato da Mondadori, 192 pagine, 19 euro. L'autrice è una studiosa qualificata sul fenomeno dei Templari e ci ricorda che questo è un anno importante perché giusto 700 anni fa Clemente V soppresse, senza però condannare, allora l'ordine religioso e militare del Tempio. Ma che cos'erano i Templari? Lo spiega la nostra autrice: erano un ordine religioso della Chiesa Cattolica, come benedettini, cistercensi, francescani, gesuiti, formato da cavalieri provenienti da tutte le regioni d'Europa e giunti a Gerusalemme a seguito della conquista crociata del 1099. Successivamente si erano collocati, grazie al re Baldovino, presso quello che era considerato il Tempio di Salomone a Gerusalemme, presso la moschea di Al-Aqsa, che è il terzo luogo sacro dell'Islam. E l'ordine diventò ben presto potentissimo, come ricorderete, quando fu sciolto e il maestro venne arso sul rogo a Parigi nel 1314, cominciò la leggenda. Tra l'altro, l'ordine di arresto dei Cavalieri Templari emanato da Filippo il Bello risale proprio al 14 di settembre. Questo libro parte dalla descrizione dell'affresco di San Bevignate, che è una chiesa a Perugia, una chiesa templare arricchita con un prezioso affresco nella controfacciata che è un unicum, perché rivela esattamente la visione del mondo dei Templari che qui ci viene illustrata, proprio seguendo quel dipinto, e scopriamo così particolari affascinanti come l'esistenza di un alfabeto segreto dei Templari. I Templari, ci ricorda l'autrice, alla conclusione del suo libro, avevano una forte carica spirituale. Nacquero, scrive, proprio dal senso di fallimento che seguì la sanguinosa conquista crociata di Gerusalemme nel 1099. Da quella sconfitta esistenziale, i Cavalieri del Tempio seppero far nascere un nuovo mondo. Erano laici che avevano dentro un bisogno di assoluto e il comune sentire del vicino a compiersi dei tempi dell'Apocalisse, forse anche per questo esercitano ancora un fascino così forte. Ultimi arrivi. Vi segnalo innanzitutto un libro di Carlo Maria Martini, Colti da stupore, incontri con Gesù, è pubblicato da Mondadori, 186 pagine, 16 euro, appena uscito. In questo libro vengono raccolte le omelie inedite del cardinale dal 2008 al 2010, tenuto nella chiesa di quell'Aloisianum dove Martini è morto poche settimane fa. Il cardinale qui ci si presenta anche capace di ironia, per esempio ci ricorda il curatore Damiano Modena che le omelie del cardinale, le messe ufficiali del cardinale, avevano grande successo, molta gente andava ad ascoltarlo e lui si scherniva dicendo: vengono perché faccio omelie brevi. E queste omelie brevi le troviamo proprio in questo libro, che viene completato poi con due scritti altrettanto inediti. Il primo è sul senso di comunicare e il secondo su Gerusalemme, una città, scrive Martini, che ci viene incontro, ci raggiunge e ci coinvolge. Un libro di un grande scrittore americano è Appartamento ad Atene di Glenway Westcott, morto nel 1987, 246 pagine, 11 euro, tradotto da Giulia Arborio Mella e pubblicato da Adelphi. Questo libro è del 1945, Adelphi infatti sta riscoprendo, per così dire, questo autore che anche in America è sottoposto a un grande riesame critico in senso molto favorevole. È un libro del 45, dicevo, ambientato negli anni dell'occupazione nazista, e da questo libro è stato tratto il film di Ruggero Di Paola con Laura Moranti, che sarà nelle sale italiane da venerdì prossimo. E infine vi segnalo il libro di un nome noto della letteratura italiana, cioè Dacia Maraini, che ha pubblicato con Rizzoli L'amore rubato, 206 pagine, 15 euro. Questo libro contiene diverse storie di donne coraggiose che affrontano situazioni spesso drammatiche nel rapporto con l'altro sesso. E a questo punto... Il confettino. Vi segnalo oggi di Marianne Satrapi I mostri hanno paura della luna, è tradotto da Elisabetta Tramacere per Rizzoli, 12 euro. Questa è una storia dedicata a chi ha un gatto per spiegare perché il proprio animale stia così bene ai piedi del letto. E con questo ringrazio Luca Cremonese in redazione, Filippo Oreggi in regia. Vi ricordo il nostro indirizzo di posta elettronica libro@radio24.it e il nostro sito www.radio24.it, dove potete sempre riascoltare queste e tutte le altre nostre trasmissioni. Vi do appuntamento domenica prossima e vi auguro buona settimana.